ma conta quello che ciascuna di queste persone coinvolte rappresenta, anche simbolicamente, anche nell'alternanza di genere. Ci sono 25 uomini e 25 donne, di ambienti della scena, perché c'è appunto il teatro, c'è la danza, c'è la performance, di generazioni, di provenienze geografiche, perché ci sono artisti del nord, del sud, insomma, del centro. E no, è un po' un modo per raccontare che tutte le forze vive della scena italiana, anche in maniera rappresentativa, non perché ci siano solo queste evidentemente, ma sono coinvolti in questa piccola impresa messa in piedi davvero di corsa, e anche messa in piedi da lontano, perché c'è una distanza obbligata in cui si obbliga a questa situazione di isolamento legata al virus, insomma, che è attorno a noi. In chiusura ci lasciate di nuovo i riferimenti, ho visto che c'è una pagina Facebook con l'evento. Sì, esatto, potete seguirlo sulla pagina Facebook di Kilowatt Festival, si chiama, quindi entrando su Facebook digitate Kilowatt Festival e potete seguirla, sulla pagina Facebook di Capotrave, che è il nome della compagnia, oppure sulla pagina Instagram, sempre, che si chiama Kilowatt Festival. Su Facebook c'è anche una playlist che poi, insomma, voi potete accedere direttamente a quella senza dover scrollare, insomma, tutti i messaggi, ma proprio andando direttamente solo a vedere questi 50 video. Però ripeto, se ci andate oggi non ne trovate 50, trovate i primi, e poi mano a mano, giorno per giorno, se vi collegate alle 7 o dopo le 7, insomma, e quando volete li trovate ogni giorno due in più. C'era due volte il Barone Lamberto di Gianni Rodari, Reading Espanso, da mercoledì 11 marzo ogni sera. Un saluto e un ringraziamento a Luca Ricci e Lucia Franchi di Capotrave e Kilowatt. Un abbraccio, in bocca al lupo, e alla prossima. Grazie a te, Federico. In bocca al lupo a tutti. Con il regista Stefano Blasi, che ha lanciato la catena per la lettura di favole al telefono di Gianni Rodari. Stefano, ben trovato. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Presentiamo questa iniziativa. È molto semplice. L'iniziativa si chiama Le favole al telefono. In questo momento in cui nella testa di tutti noi, di tante persone, inclusi noi che stiamo parlando adesso, ci sono tanti pensieri un po' negativi, no? Un po' di pressione, un po' di morte, cerchiamo di mettere invece dentro la testa delle persone dei pensieri diversi, di speranza, di gioia, di positività. E come facciamo? Lo facciamo utilizzando una delle cose importanti dell'essere umano, che è la relazione con l'altro. Noi senza relazione con l'altro impazziremmo, non possiamo vivere da soli. In questo momento invece dobbiamo rinunciare a un pezzo importante della nostra relazione con gli altri, che è la felicità di poterci incontrare anche solo per drammatizzare, per ridere o per stare insieme. E allora usiamo la relazione della voce, che la radio la conosce molto bene, questa relazione, per entrare in contatto uno con l'altro, ma non entriamo in contatto così e basta. Perché se entrassimo in contatto così e basta, cominceremmo a farci invadere da questi pensieri negativi che la situazione intorno a noi oggi ci provoca. E invece allora usiamo un'opera d'arte, usiamo la letteratura, raccontiamoci una storia bella, raccontiamola con la voce a qualcun altro, in modo che questo qualcun altro si possa abbandonare a un pensiero diverso in questo momento, e poi abbia voglia di fare anche lui la stessa cosa con altre tre persone. E quindi ecco il gioco di questa grande catena che si chiama Favole al telefono ed è ispirata all'opera di Gianni Rodari, che prevede che ciascuno di noi, chi vuole partecipare ovviamente, telefoni a qualcuno così senza preavviso e inizi a raccontare una storia, e alla fine, se questa storia è piaciuta, ci sarà l'invito da parte di questa persona a chi ha ascoltato a telefonare a sua volta ad altre tre persone, e di tre persone in tre persone chissà quanti arriviamo. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? No, non ce ne sono dei riferimenti web, perché in realtà la cosa è molto semplice, bisogna telefonarsi, quindi non c'è bisogno di andare a cercare qualcosa di scritto sui social o sui siti, perché in realtà non c'è. Se qualcuno ne vuole parlare, ben venga, insomma, non è che è proibito, non ci sono tante regole in questo gioco, ce n'è solo uno: scegliere una storia che ti piace, possibilmente di Gianni Rodari, perché funzionano molto bene per questo scopo, chiama tre amici e chiedi a loro di fare la stessa cosa una volta che avranno apprezzato la storia che gli hai raccontato. Stefano, allora un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi e buon lavoro a tutti. Ciao. con Ilaria Capanna, ideatrice del percorso 100 Rodari, con Stefano Blasi, abbiamo parlato della catena per la lettura delle favole al telefono, e con Ilaria parliamo invece più complessivamente del progetto legato a questo centenario. Ilaria, ben trovata. Ben trovati a voi. Ci racconti un po' da dove parte tutto? Parte da un territorio, anche se Rodari è universale, il suo pensiero, la sua poesia è ancora tutt'oggi rivoluzionaria, e parte da un territorio che è quello del Trullo, dove dall'anno scorso, dal 2019, è stato ideato e progettato un percorso di formazione anche col movimento di cooperazione educativa, con pedagogisti e conoscitori della figura di Rodari, e che continua ad andare avanti, andrà avanti anche nei mesi che verranno. È un percorso che appunto vuole sottolineare e far conoscere in quest'anno, che è il centenario di Rodari, ancora di più questo intellettuale a tutto tondo, perché è stato sì maestro, pedagogista, giornalista, non solo scrittore di favole, ma possiamo veramente dire che deve essere riconosciuto come letterato. Il percorso è a tappe e nasce nel territorio del Trullo, perché qui lui scrisse, pensò, era già nella sua testa, ma cominciò a farla nascere concretamente, quella che è la storia, la favola della torta in cielo. Venne pensata nel 1964 attraverso degli incontri che lui fece con la maestra Biggiaretti, che era una maestra del movimento di cooperazione educativa, insomma lui conosceva i grandi maestri del movimento di cooperazione educativa, anche Mario Lodi e gli altri, perché andava in questi incontri come figura di giornalista, come figura anche attivista, desideroso di informarsi su quelli che erano i processi della scuola, a cui lui si è interessato tantissimo con i suoi scritti giornalistici, ma anche attraverso quelli che sono i suoi racconti e le filastrocche stesse, che hanno una poesia civile. E qui con la maestra Biggiaretti, che lui insomma stimava tantissimo, con diversi incontri fatti in questa sua classe, ha ideato con i bambini quella favola fantastica che era Torta in cielo, e quindi da questa cultura rimasta in questo territorio abbiamo poi iniziato il percorso di 100 Rodari l'anno scorso, ripeto. Poi quest'anno ovviamente il centenario è diffuso giustamente per tutto il paese, per tutta l'Italia, ma anche oltre, all'estero, dove comunque le sue edizioni sono state poi tradotte in tantissimi paesi orientali, occidentali, anche per tutti i suoi viaggi in Russia, già Cipollino, insomma, è stato editato nel 1951, ma poi insomma tradotto quasi subito in Russia. Su Roma c'è il centenario, è anche festeggiato e fatto conoscere attraverso tantissime iniziative, tra cui anche le istituzioni biblioteche di Roma, che attraverso le loro biblioteche sul territorio, sono tantissime, sono situate su ogni quartiere, diffonderanno la conoscenza di questo intellettuale. Ci saranno libri in uscita, ci saranno ancora tanti eventi, quindi insomma potremmo essere riscaldati e conoscitori di tutte le favole che lui ha scritto, di questi racconti brevi, e dove insomma gli scrittori del fantastico dopo il secondo Novecento ci hanno proprio ridato per primo un linguaggio rivoluzionario, hanno proprio cambiato il modo di pensare, hanno ricostruito attraverso parole nuove un paese intero. In questo senso ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulle iniziative? Certo, quello ovviamente istituzionale delle biblioteche di Roma, poi c'è la pagina Facebook di 100 Rodari, scritto proprio a parola 100 Rodari, che esiste da un anno, dove insomma diffondiamo gli eventi, e poi c'è sicuramente quello del sito della casa editrice in Audi L, che ha un blog proprio nel suo sito, dove ci sono tutte le informazioni degli eventi di tutta Italia, ma anche all'estero. Questo per quanto riguarda 100 Rodari, un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Ilaria Capanna. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti voi. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.